Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. In festa allo Juventus Stadium, 47 minuti, 47 secondi, urlano di fischiare i tifosi che vogliono esplodere. Rincon, area di rigore, Rincon ci pensa, il generale non calcia, viene fermato, pallone allontanato, Alessandro ancora, palla per Dybala, fischia Mazzoleni, la Juventus ancora una volta è campione d'Italia per la sesta volta consecutiva, lo scudetto è bianconero, un record straordinario, un'impresa mai realizzata prima. Ed è così, del resto era scritto negli astri, anzi ha ragione Marotta che prima ha detto non ci aspettavamo di dover arrivare alla penultima giornata per vincere lo scudetto, cosa che oggi come da pronostico la Juventus ha fatto, 3-0 sul Crotone, che ha fatto una partita dignitosa e che giustamente con tutto il mio tifo domenica si giocherà la salvezza in uno scontro a distanza con l'Empoli che invece ha perso la millesima partita di questo girone di ritorno in casa con l'Atalanta 1-0. Domenica di verdetti, li diamo rapidamente, dunque Juventus campione d'Italia, Atalanta sicura del quinto posto, quindi non ci saranno i preliminari, Milan sicuro del sesto posto, ha battuto 3-0 il Bologna, torna in Europa dopo tre stagioni, dopo quella sfida con l'Atletico Madrid anno 2013-2014, Montella merita un uragano di applausi perché va in Europa e altri invece restano fuori, il riferimento è all'Inter che vedremo poi alle 20.45. Giocare per non scrivere la storia al contrario, per non restare per la nona partita consecutiva senza vittoria come non gli è mai capitato nella sua storia in Serie A. E poi dicevamo la lotta per salvarsi, si salva il Genoa che batte 2-1 il Torino, tutto aperto tra Empoli e Crotone, Empoli 32 punti, Crotone 31, domenica c'è Palermo-Empoli e Crotone-Lazio, se arrivano a pari punti si salva il Crotone. 800-24-00-24. Questo è il riassunto di questa domenica di calcio, poi c'è la MotoGP e tante altre cose di cui parlare, ma lo faremo in diretta fino alle 19. 800-24-00-24, io voglio che chiamatevi, prenotate, e voglio che mi diciate un nome solo da mettere in copertina per questo scudetto che proietta la Juventus nella leggenda. Carlo Genta. Facilissimo, Buffon. Uno, Buffon, tu dici? Facilissimo. Secondo me no, ce n'è un altro. Qual è? Il nome è Massimiliano Allegri. Ah, vabbè, non c'è, okay, non c'è sì, nessuno, no, più di lui, bene, che debba, bene, mettere la faccia, bene, anche se il pallone d'oro lo vincerà Buffon. Tu dicessi giocatore, anche se i tifosi da Juve hanno votato Higuain. Sabato tu dicessi giocatore, per Allegri non ci sono più parole, solo titoli. Adesso aspettiamo di capire cosa succede a Cardiff. Certamente è uno dei più bravi allenatori del mondo a tutt'oggi. Mi ha impressionato, ti facevo notare prima, la mancanza di quasi di esultanza da parte, quasi l'abitudine, sì, quasi la noia, cosa scontata, tanto che la notizia di oggi secondo me è la caduta da cui non mi sono ancora ripreso di Valentino Rossi all'ultimo giro alle mamme mentre era in testa. Parliamo dopo le 18:30, Però anche i tifosi non erano, cioè non li vedevi così sorridenti. Sai che cosa facciamo? Lo chiediamo a Massimo Zampini. Agnelli era con le braccia conserte, tutto normale, Massimo. Tutto normale. Massimo, tu stai sorridendo? Sì, molto, sono felicissimo e la ritengo un'impresa più straordinaria ancora di quelle degli anni precedenti, perché ogni anno, anche se sembra più facile, invece di trovare stimoli, più fame degli altri, più cattiveria quando gli altri non vincono da tanti anni, e tu invece potresti... Credo che a parte il primo anno sia la volta che ci ha messo di più la Juve a vincere lo scudetto, sì. a livello temporale intendo. Sì, è vero. No, Massimo. Devo dire, vedendola oggi con gli occhi sereni di chi ha vinto, che la gestione finale è anche stata perfetta da parte di Allegri, sì, perché io mi riservavo di vedere oggi come sarebbe andata. Sì. Però lui davvero ha rallentato, non volutamente, però ha cominciato a cambiare 6-7 uomini per arrivare in fondo, spera, ovunque. E devo dire, visto oggi, è stato forse lo scudettino del finale più maturo di tutti e sei. Magari non il più emozionante, non il più sorprendente, però maturo sì, e è una gestione totale all'inizio e alla fine del ruolo di favoritissimi, perfetta secondo me. Immagino sì, che per usare l'aggettivo emozionante, poi tutto il popolo juventino aspetti. Aspetti il 3 giugno. Beh, sì, dai, sarebbe qualcosa di più. Sarebbe leggenda, no? Nonostante, no, ma anche questa è leggenda comunque. Sì, perché il sesto scudetto nessuno c'è mai riuscito. No, ma sai cosa mi spaventa? Mi spaventa sul serio il fatto che è un impero su cui non si vede un orizzonte su cui possa tramontare il sole, perché comunque vada questa Champions League, gli introiti, i ricavi, eccetera, eccetera, discorsi economici allontanano ancora di più la Juventus da tutte le altre. È vero che la novità, applausi in piedi, standing ovation per Napoli e Roma, che sono arrivate al sogno proibitissimo in una notte di metà maggio alla vigilia della penultima giornata. L'unica novità è questa. Però non, sinceramente sono molto preoccupato per l'anno prossimo. Tu Massimo? No, io pensavo... Al contrario. A parte che non sarei preoccupato affatto, no, però io, come sapete, lo sapete, ero prudente anche quest'anno, perché io ritengo, forse sbagliando a questo punto, ma un'impresa davvero incredibile avere ogni anno più fame. E la Juve sembra che abbia ogni anno più voglia delle altre, che a volte perdono punti durante l'anno con squadre anche inferiori, e non solo per la rosa, il fatturato, a volte proprio per una determinazione minore, secondo me, in certi casi. E la Juve questo non la mostra praticamente mai. E secondo me il secondo anno era un'impresa, il terzo è la più forte, è comunque la più forte, dai. È la più forte. Però scusatemi, non è un caso se nello sport, nel calcio, in 100 anni non è mai successo. Ci sono stati cicli di squadre fortissimi. Sì, però c'era, d'accordo, però c'era una speranza di rivalità. In questo caso Roma e Napoli non possono competere con la Juventus. Però Roma e Napoli ti hanno raccontato che poi il calcio è uno sport come tutti gli altri sport, i risultati si costruiscono, ragazzi, in campo. Io ritengo, immagino che gli 87 punti finali della Roma e gli 86 del Napoli siano qualcosa che devono fare riflettere profondamente. È strano, Giovanni. Massimo, ma è strano anche per la Juve. Allora, è strano anche che si vinca perdendo 5 volte in trasferta, come, certo, ha fatto la Juve quest'anno. Mi dici un nome solo, uno da mettere in copertina. Domani hai una prima pagina, me ne devi mettere uno. Ti metto Allegri. È banale, ma ti metto Allegri, sì, perché questo è veramente l'anno in cui lui ha mostrato, ho detto maturo per questo, perché ha mostrato una gestione in totale controllo di emozioni, minuti dei giocatori, momenti in cui cambiare modulo. E insomma, è riuscito, secondo me, in un centrocampo che sembrava un po' indebolito, è riuscito a creare uno schema con due soli centrocampisti e mettere tutti i migliori davanti. E insomma, Dani Alves al momento giusto nell'insieme, e lui gioca senza cambi in attacco comunque da 3 mesi, perché non c'è piatto. Secondo me è stato perfetto, veramente. No, ma Giovanni, questo giochino è divertentissimo, però sei d'accordo se togliamo Allegri? Perché sennò la risposta rischia di essere... No, io non sono d'accordo, perché invece in copertina andranno gli altri. Andranno gli altri, andrà Buffon, che forse vincerà il pallone d'oro, se a Cardiff andrà in una certa maniera, andrà Higuain, che per tutti sarà l'uomo che ha portato i suoi 90 milioni senza sentirne la pressione, andrà Dybala, che è un fuoriclasse predestinato, andrà il muro della difesa, e invece tutti questi, secondo me, senza la cucitura che ha fatto Allegri in 2 o 3 momenti di questa stagione, probabilmente non sarebbero nemmeno arrivati alla festa di oggi, visto come si erano messe alcune cose. Se volete un nome di giocatore per far contento anche Carlo, secondo me Higuain può essere sorprendente, perché eravamo abituati ai 36 gol l'anno scorso. Motiva. Perché Higuain quest'anno arriva con tutta l'attesa, che sappiamo, e non è facile, in un modulo diverso, con una squadra che non gioca solo per lui, e lui fa praticamente il rifinitore per buona parte dell'anno, aprendo il gioco a destra, a sinistra, andando a riprendere palle, fa 24 gol che nella Juve non capitava da molto tempo. E ragazzi, io vi ricordo Juventus-Roma, Juventus-Torino, Juventus-Napoli, cioè Higuain nella Coppa Italia, Higuain ci ha deciso una marea di partite decisive, e ripeto, una squadra che non gioca solo per lui, e dando un bel contributo, anche caratterialmente. L'anno scorso lo vedevo spesso protestare con i compagni, con l'arbitro, cioè mi è parso veramente, anche Higuain direi più maturo dell'anno scorso, dove è stato fantastico, ha fatto 36 gol. Da un Higuain che non mi aspettavo con questa come realizzazioni sì, ma con questa utilità, questa applicazione. La parola corretta per questo Juventus è sacrificio, che viene accettato da tutti, Higuain compreso, perché hai detto tu giustamente, a un certo punto si è messo a fare quasi il centravanti boa o il centravanti difensivo, ma Dybala stesso ha rinunciato a qualcosa del suo talento e a un certo numero di gol. È chiaro che per giocare così serve il sacrificio di tutti, ed è questo il motivo per cui la prima pagina, la fotografia dedicata ad Allegri, è così scontata. Allora, ci mettiamo lì, però voglio sapere anche dalla gente a casa. Allora, io vi ripeto i numeri, poi adesso sentiamo subito Montella, che è l'altro sorriso di questa giornata. Beh, sorriso. 800 24 00 24 per prenotarvi a intervenire fino alle 19, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Aspetta lì Massimo, c'è Montella. I microfoni di premium, non così sorridente. Sicuramente sono stati raggiunti perché abbiamo vinto una Supercoppa con la Juve. La priorità, l'obiettivo primario era rientrare in Europa, ci siamo riusciti. Peccato per la Coppa Italia che abbiamo perso, insomma, con la Juventus, ma con onore, giocandola fino in fondo. Quindi adesso siamo più sereni. I ragazzi hanno fatto veramente un grande lavoro. Sono contento del risultato, ringrazio tutti, anche le anime che stanno dietro la squadra, che molto spesso sono quelle che fanno la differenza. Fassone le aveva detto che entro i primi di luglio avrebbe avuto 2/3 della squadra fatta. Sostanzialmente questo ingresso in Europa League cambia qualcosa, nel senso, secondo lei, per fare ad alti livelli sia campionato che Europa League ci vogliono quanti giocatori? 20, tutti abili, arruolabili o meno? Non lo so, ora sicuramente sono esperto dell'Europa League, l'ho fatta per 2 anni consecutivi e siamo arrivati anche abbastanza avanti, in un anno anche in semifinale, quindi un po' di esperienza ce l'ho. Ora ci siederemo e vediamo cosa si può fare. Adesso si può fare con più tranquillità perché abbiamo raggiunto l'Europa e vediamo insieme cosa si può fare. Rapidamente, questo chiaro Montella l'oscuro, che sorride come se sorride. La stagione del Milan è incredibile, se pensate che alza comunque un trofeo. Esatto. Che alza comunque un trofeo e va in Europa davanti a Inter e Fiorentina, che erano probabilmente, l'Inter credo certamente, sulla carta superiori. Massimo, ti giro due messaggi: 349 238 6666, poi ti saluto. L'impero potrà tramontare se il sostituto di Allegri sarà trattato come Ranieri quest'anno dai suoi giocatori dell'Leicester, il sostituto di Ranieri. E poi c'è un altro amico che scrive: la Juve e Allegri sono a un bivio di fine ciclo, o programmano per i prossimi 4 anni o il mister deve andare in pausa per un anno in stile Ancelotti e Guardiola. Questo è un bel tema. Secondo me questa è la conferma che Allegri è l'uomo copertina, perché Massimo, lui ha dovuto lottare Massimo, anche con queste cose qua. Io l'ho chiesto tutta la settimana a tutti, lo faccio anche con te, in caso di vittoria a Cardiff, fai tutti gli scongiuri che vuoi. Fossi tu Allegri, resteresti la Juve o andresti via? Ma forse resterei, ti dico la verità. Cioè, secondo me non bisogna avere. Io ho contestato anche a Conte l'andare via così perché aveva paura e non rivincere lo scudetto. No, ma Conte è una storia diversa. Però secondo me non bisogna avere paura anche di non vincere eventualmente un anno. C'è una super squadra. La squadra, penso, la società voglia rinforzarsi, è una società che ti fa lavorare perfettamente. Io continuerei, cioè, non, senza timori, però se ha altri stimoli deve pure andare via. Però secondo me non è che ogni volta si raggiunge una vittoria poi si debba andare via perché non ci sono più stimoli. L'anno dopo ci si riprova, è uno stimolo anche quello. Sono d'accordo con te, grazie Massimo. Grazie, ciao a voi, Massimo. Grazie ciao. Massimo Zampini, Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Mettiamo anche le voci da Torino, dalla festa dello scudetto che la Juventus sta celebrando in questo momento nel suo stadio. 800 24 00 24. C'è chi ci scrive che c'è aperta anche la lotta per il secondo posto. È vero, c'è aperta la lotta per il secondo posto, anche la lotta per il titolo di capocannoniere tra Dzeko e Mertens, ma abbiamo tempo per parlarne e tra qualche minuto. Saluto Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore. Ciao direttore. Ci dici un nome solo da copertina che sia il simbolo di questo scudetto della Juve? Allegri. Te l'ho detto di toglierlo dalla classifica perché è chiaro che è così, non c'è alcun dubbio. Ma questo è il capolavoro di Allegri. Allora facciamo così. Sono d'accordo. Tra i giocatori direi forse per quello che ha fatto vedere come crescita Dybala. Vedi, vedi che qui già ci sono pareri diversi, Giovanni. Altrimenti è un plebiscito, è chiaro che è Allegri. No, ma comunque, non, io dicevo prima, direttore, ti esterno la mia preoccupazione, perché la Juventus è un impero su cui non si vede tramontare il sole, nemmeno all'orizzonte. Il futuro è già stato programmato, perché sono già stati fatti degli acquisti, ad esempio... E adesso arriva anche Schick. Caldara. Quindi il ricambio generazionale è già pronto, e con questa distanza nei confronti delle altre, anche se Napoli e Roma sono state bravissime ad arrivare al sogno proibitissimo scudetto, come dicevo prima, fino a stanotte, però è chiaro che la Juventus è la squadra più forte e sarà l'anno prossimo ancora più forte grazie agli introiti della Champions League, a prescindere da come vada a finire a Cardiff. Quindi la distanza aumenta di nuovo, sono sei, è storia, è leggenda, ma è successo, ma l'anno prossimo, se vanno così le cose, sono sette. Sì, ma io dico che al di là di questo ci sono altre valutazioni da fare che rientrano un pochettino anche nell'organizzazione, perché sennò sarebbe semplicistico il discorso che a volte sento fare dei fatturati. La Juventus ha comunque, nell'era Agnelli, perso una sola partita con il Barcellona tra squadre che hanno un fatturato che è addirittura doppio del suo. Quindi quando si arriva certo a una soglia di fatturato in cui il business è in qualche modo compatibile anche con quelle più grandi, va bene, però c'è qualcosa di più a livello di organizzazione, di scelte di giocatori, di qualità del gioco che si esprime, che non è sempre soltanto la bellezza ma anche l'efficacia. Quindi una squadra che abbia una mentalità come la Juve, in grado di affrontare anche in partite decisive qualunque ostacolo e non sentirsi inferiore. Ecco, sì, tutto però sul campionato che è una corsa, che è una maratona, se sei più forte vinci. Io penso che in realtà quest'anno ti racconta che tu se sei più forte vinci, ma si può anche perderlo. Anzi, io esco da questo campionato con la convinzione che il Napoli abbia capito che può provare a fare quello scattino in più, che vuol dire arrivare a 90 punti. Vi invito a trovare e poi uno a vedere che cosa succede. Ma poi vi vedere vi che andate, cosa succede. Vi sfido a trovare, direttore, scusami per la leggerezza, ma vi invito e vi sfido a trovare un sorriso nei giocatori della Juventus che vanno a prendere la medaglia, un po' Bonucci che sorride, ma ormai qualcosa di scontato, anche il pubblico sembra quasi, insomma, lì contenti, però tutto normale. Però no, posso dire, in questo non sono d'accordo. Ah. Io devo dire la verità, ma al di là di tutto, perché sapete che io non sono un tifoso, però come dire, mi emozionano anche certe scene. Ecco. L'abbraccio con questa. I figli, vedere Marchisio che piange, perché è dietro quel pianto c'è la sofferenza di questo giocatore, no? Perché comunque in questa stagione ha sofferto tantissimo. È uno di quei giocatori che ha vinto i sei scudetti consecutivi, come Bonucci del resto. Quindi c'è una certa emozione, ma come dire, in qualche modo incanalata in qualche cosa di organizzato, di disciplinato. Ed è questo che probabilmente è la forza della Juventus. Andatevi a risentire certe dichiarazioni di mesi fa di Allegri, che diceva questo scudetto si deciderà con una differenza al massimo di 4-5 punti. Ora, sì, c'era una capacità di lettura che probabilmente altri non hanno avuto. Io, esatto, direttore, ti rubo 10 secondi perché tu hai parlato di emozioni, figli, ed è stato molto emozionante quello che accadeva proprio in quel momento, perché c'era Bonucci ed è stato raggiunto in campo dal piccolo Matteo, di cui purtroppo tanto abbiamo parlato, per fortuna con un esito insomma positivo, ma insomma tanto abbiamo parlato in questi mesi, ed è stato un momento davvero toccante, per dire che poi le storie di campioni, di successi, sono anche storie che passano attraverso vicende personali tortuose. Anche Piazza, eccolo. Faccia triste, ognuno Piazza. Di questi qui ha una storia pazzesca, insomma, quindi è bello vederle da Buffon. Sì, adesso l'ovazione finale per Buffon, Allegri. Io però devo dire una cosa, so che offende molti tifosi della Juve, si offendono. Io credo che si possa dire di aver vinto meritatamente, di essere i più forti e di non essere i più belli. Cosa che secondo me è, perché il Napoli ha rubato gli occhi, perché la Roma merita applausi, e però la Juve è stata più forte e credo che la forza sia anche dirlo. Dipende da cosa intendi per bellezza. Dipende, ma cosa dipendo, si intende dipendo per la bellezza estetica, di qualità, ma anche di praticità, perché il Napoli chiude probabilmente con 86 punti, quindi non è nemmeno vero che è bello e basta. Ma secondo me la bellezza è anche nel modo pratico e pragmatico ed estremamente moderno, perché la nouvelle vague del calcio europeo, quello di saper giocare in modo così pratico e pragmatico. Poi, se vogliamo... chiaro, il Napoli ha un organico, cioè un complesso che suona una musica celestiale, però la praticità della Juventus, l'impenetrabilità della Juventus, comunque secondo me è lo stesso esteticamente bella. Sì, però allora faccio una provocazione, domando ai tifosi della Roma o ai tifosi del Napoli se farebbero cambio con la squadra che ha vinto lo scudetto, per esempio quello di Maradona, che sicuramente bella non era. Farebbero cambio sicuramente, ma io te l'ho messo in maniera provocatoria, vista dal lato dei tifosi della Juventus. Tu Twitter allora, a scrivere: la Juve vince meritatamente la più forte, il Napoli ha fatto il calcio più bello, ma... vieni sommerso allora, io da miliardi di insulti. Sicuramente come premio di consolazione, quindi come diciamo anche come giudizio estetico, sicuramente il giudizio positivo va al Napoli, questo è certo, sicuro. Premio però, della critica. Però ecco, diciamo, attiene un pochettino alla completezza di quello che è il quadro sportivo, anche il raggiungimento di determinati obiettivi, no? Perché poi da un'altra parte c'è la critica di chi dice sì, è stato bello da vedere in campo, però magari rispetto ad altri allenatori meno celebrati hai vinto meno, quindi ci si attende adesso delle vittorie, quindi è una discussione legittima che ci sta. È innegabile, io lo dico anche da direttore di giornale, che il Napoli ha espresso un gioco bellissimo quest'anno, assolutamente. Ma non farei confronti, ecco, questo mi sembra ecco, di poter dire che una linea di demarcazione potrebbe essere quella di non fare confronti. Si può dire un valore assoluto è la bellezza, quella del Napoli sicuramente è un valore. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie a Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Domani in edicola, perché ovviamente sarà un numero particolare per festeggiare il sesto scudetto consecutivo della Juventus. Io invito anche a un'altra riflessione gli ascoltatori, se posso, così intanto chiamano l'800240024. L'intervista che abbiamo fatto poco tempo fa con Arrigo Sacchi, il quale ha sottolineato per questa Juventus l'importanza della parola norme. Io gli ho chiesto, l'ha sottolineata con forza, attenzione alla parola norme. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, poi gli ho chiesto una spiegazione, ha detto che il momento chiave è stata l'esclusione di Bonucci a Oporto, e ha raccontato di aver incontrato Bonucci, che è Bonucci, qualche giorno dopo ad una premiazione, e Bonucci ha detto: da quella cosa ho capito diverse situazioni, diverse cose. Giovanni da Ragusa, Giovanni. Sì, buon pomeriggio ragazzi. Prima di tutto volevo scusarmi con Carlo per avergli dato dello Juventino. Vabbè, insomma, non è un'offesa, dai, vai avanti che poi abbiamo il meteo. Non è un'offesa. Sì. Niente, volevo sapere se è record europeo queste 6 scudette consecutive. Mi sembra di no. No, ci sono squadre che ne hanno fatti 14. Ce ne sono squadre che hanno fatto anche di più, ovviamente in campionati minori. Credo che il record sia di una squadra di Gibilterra che ne ha vinti 14. E poi ce ne sono. Ce ne sono anche altre. Ma adesso facciamo così. Adesso ve lo dico, ci fermiamo. 30 secondi, 800240024. Grazie, Giovanni. Vai. Tutti convocati. I just can't get enough. I just can't get enough. Far frutta, la natura di prima mano. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Convocati. Sempre in corso la festa della Juventus per il sesto scudetto consecutivo. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao Pier. Ciao. Hai mai visto, una festa scudetto con così pochi sorrisi? Composta. Così composta. Vabbè, ma è l'abitudine, dai. È la più? È l'abitudine. È appunto, l'abitudine. È l'abitudine e anche l'attesa di qualcosa di più grande, però ma certo, però le, tu sai benissimo, mi insegni come le dinastie siano la caduta della libido di ogni sport. A proposito, faccio un annuncio ufficiale ed uso una voce ufficiale oggi giorno di Verdetti, non solo la Juventus campione d'Italia, aspetta. Anche Giovanni Capuano che batte ufficialmente Pierluigi Pardo nel gioco delle schedine. È finito il campionato, ora Capuano ha con due 90 lunghezze minuti di d'anticipo. Vantaggio con 90 minuti di anticipo. L'ho fatto l'annuncio ufficiale. Sì, beh, andiamo avanti. Vergognati, giusto, Pardo, vergognati. Complimenti al vincitore, diciamo che fino a quando insomma, il campionato è stato un campionato di partite vere, diciamo, sì, con squadre tutte motivate, sì, non c'è stata la partita. Poi questa finale di stagione sicuramente qualche errore l'ho commesso. Allora, vi leggo qualche messaggio che è arrivato, senti un po' Pierluigi, intanto abbiamo aperto anche su Twitter il nostro sondaggione sull'uomo copertina di questo scudetto, Allegri, Guain, Dybala, Buffon, questi sono i quattro numeri che suggeriamo noi, ma se ne avete altri diteceli. Scrive un amico, il vero record l'ha fatto il Napoli, miglior allenatore, squadra con il miglior gioco, squadra con più vittorie in trasferta, eccetera, eccetera, eccetera. Pier? Ma no, guarda, è un tema... è un tema appassionante, ma che non mi appassiona perché risposte non ci sono. Napoli giochi benissimo, è indiscutibile. E io penso che rischi di essere un limite questo. Cioè, io fossi Sarri non vorrei troppi complimenti, al netto del fatto che è ovvio che ha giocato benissimo, che segna una marea di gol, che certamente in Europa ha pescato, e lo si è visto, un'avversaria fortissima che non a caso nel finale contro la Juve. È tutto assolutamente vero, è tutto assolutamente giusto. Però tu continui a pensare che il terzo posto sia una mezza sconfitta? No, io continuo a pensare, prima di tutto, che il Napoli sia più forte della Roma in termini di rosa, e ne sono straconvinto. È chiaro che la Champions League è più impegnativa dell'Europa League, quindi magari qualche energia può averla tolta, però insomma io penso che non sarebbe, non è utile per lo stesso Napoli farsi trasportare dall'entusiasmo. Accontentarsi del premio della critica. Ecco, appunto, un conto è l'entusiasmo del gioco, che è bellissimo, nessuno lo discute. Insomma, io il Napoli gioca un calcio meraviglioso, insomma, non veramente sarebbe assurdo non dirlo. Il Napoli gioca un calcio meraviglioso, gioca un calcio molto offensivo, però ha una grande squadra e deve provare a fare il salto di qualità. Arriva terza. Zero titoli. Così come credo anche la Roma. Saluto Giancarlo Dotto. Ciao Giancarlo. Nei minuti in cui stiamo festeggiando, vediamo se da Sky riusciamo a prendere l'audio, perché sta entrando Buffon. Dopo Allegri. L'unica cosa che gli manca, che probabilmente porta un altro trofeo, cioè la Champions League, che può portare al pallone d'oro. Eccolo qua, Buffon, anche lui raggiunto dai figli in mezzo al prato dello Juventus Stadium. Una figura mitologica, è applaudito da tutti. Buffon, che oggi ha vinto l'ottavo scudetto della sua carriera. Dicevamo, nei minuti in cui celebriamo la Juventus, insomma, stiamo anche provando a capire, e chiedo a Giancarlo Dotto se si intravede all'orizzonte qualcuno in grado di contrastare il dominio della Juventus. Giancarlo. Ma al momento no, voglio dire, tra l'altro, tutto l'onore possibile a Buffon, ma devo dire che il giocatore chiave dello scudetto della Juve di quest'anno è quello che non a caso ha sbloccato la partita oggi, cioè parlo di Mario Mandzukic. La cosa più interessante di questo giocatore è che veramente ha incarnato, forse primo attaccante, ha incarnato l'anima juventina, cioè l'anima forte, l'anima di ferro, che in genere viene incarnata nel passato da centrocampisti, difensori, no? Penso a Cannavaro, Furino, Tardelli, Ferrara, gli stessi Bonucci e Chiellini. Un giocatore straordinario. Giancarlo, non è un caso che allora nello spogliatoio della Juventus ci siano due poltronissime in fondo, che sono occupate normalmente dai due leader. Uno è chiaramente Buffon e sull'altra poltrona accanto a Buffon siede Mandzukic. Dico per inciso che mi sembra curiosa però la scelta protocollare di far entrare Buffon dopo Allegri. Ma sempre così, sempre stato così. Sì. Boh, e credo che il primo anno con Del Piero entrò per ultimo, insomma. Tanto se posso buttarla lì con una provocazione, entrò Buffon prima di Allegri l'anno scorso a Sassuolo, nel punto più basso dell'ultimo biennio della Juventus, o no Pier? Sì, a parlare intendo, a parlare, sì, ma a parlare quando c'era da mettere i puntini sulle i. Sì, entrò Buffon, entrò Bonucci, entrò Chiellini, entrò Evra. Questa è una squadra piena di leader con degli enormi valori morali, dove per morale intendo soprattutto la capacità di tirar fuori gli attributi nei momenti difficili, e Allegri è stato un gestore perfetto. Sono molto felice per Allegri, perché se lo merita, e per tanto tempo ancora oggi, nei rari momenti di difficoltà della Juve, sento un eccesso di critica. Anche una settimana fa, insomma, anche lunedì scorso c'era qualcuno che diceva che aveva sbagliato tutto, mi pare che invece alla fine i conti tornino sempre. Io ho l'impressione, Giancarlo Dotto, che non è detto che l'anno prossimo sia la stessa cosa. Tu citi Mandzukic, io cito Eto'o, che il primo luglio dopo il triplete andò da Benitez a dire: io il terzino non lo farò mai più. Era Eto'o. Intanto vediamo se sarà triplete, però per legare... Capito. Cos'è? C'è il nostro Mughini. Uno straziante, ho sentito. Penso anche di capire Dotto, non inabissarti nelle stronzate, non diciamo delle panzane aberranti. È impossibile avere il culo dell'Inter del 2010. Se fosse lo scaramantico Mughini vero, non avrebbe mai detto che il triplete è già in tasca. Comunque, per tornare a quello che diceva Parvio e anche alla domanda che mi facevi prima sulla distanza, che poi, insomma, se il prossimo anno può accadere qualcosa e non invece avvicinarsi al settimo, devo dire che la vedo molto difficile, perché tutti diventano grandi alla Juventus. Cioè, nella Juventus c'è una specie di grandezza necessaria, imperiosa. Cioè, Allegri, quando arriva alla Juventus, non è un grande. E così vale per Conte quando ci arriva, per tutti i giocatori, non hanno grandi Bonucci, Chiellini, Pogba, Pjanic, lo stesso Dybala. C'è una grandezza necessaria che nasce dal fatto che quando entri in questa società scatta una forma di utile plagio, tale per cui questa grandezza diventa necessaria, non hai scampo. È una grandezza un po' francescana, no? Faccio notare come la Juventus è tornata grande quando si è innestato questo corso societario, perché ai tempi di Blanco Bollicini, che però si lega a una tradizione, non è una novità, no? Casomai la novità era la Juventus che non vince, la Juventus che tracolla, anche per i motivi che sappiamo. È una nuova società che si lega però a una tradizione di ferro, cioè dove l'unico imperioso comando è quello di vincere, e se non vinci non sei nessuno. E questa quindi è una grandezza povera francescana, stavo dicendo, perché è concentrata esclusivamente su un solo punto, cioè non ammette distrazioni. Ecco perché a Roma, nella Roma, dove invece tutto diventa complicato, difficile, dove tutto è bello ma impossibile, la distanza sarà sempre incolmabile. Se poi aggiungi lo stadio, aggiungi l'organico, aggiungi tutto il resto, evidentemente sarà molto anche, difficile. Anche il benedetto fatturato, perché poi la Juve resta un altro passo per Schick, certo. Perché i 25 milioni per Schick per la Juve sono noccioline. E poi si crea anche ovviamente un effetto alone, per cui tranne rarissimi casi, forse Nainggolan ormai è uno di questi, insomma sono pochi quelli che possono resistere alla tentazione della squadra di riferimento in questo momento. Insomma, come biasimare che se a parità di offerta fra tante pretendenti preferisce la Juve? Preferisce andare alla Juve, Dire, diventa parte, anche normale. Diventa normalissimo, quindi è un grande vantaggio. Il calcio moderno è, lo sappiamo, un divaricatore di distanza, nel senso che più vinci e più si allarga la forbice nei confronti di chi non vince. E la Juve ha girato la ruota nella maniera più giusta, non ha sbagliato niente in questi ultimi anni, per cui o arriva uno shock esogeno, che potrebbe essere per esempio Zhang nel medio periodo, sicuramente la quantità di soldi che l'Inter potrebbe buttare sul piatto al netto del fair play finanziario potrebbe essere, faccio un ragionamento di scuola, potrebbe essere una delle cose che nei prossimi anni, certo, la cosa che ci auguriamo tutti, perché come ti dicevo prima, le dinastie sono la morte della libido sportiva, tutti tranne i juventini, ma anche magari gli juventini, nemmeno i romanisti e i napoletani che vogliono avrebbero una concorrente in più per il titolo, però insomma quel dice top è stravero, stragiusto, io, la distanza è tanta. Pier, io penso che se una squadra che arriva a 86 punti, penso al Napoli, a quello che sta succedendo in questi giorni, va oltre, conferma tutti i suoi migliori come sta facendo, abbatte alcuni muri mai battuti di monte stipendi, è perché è in testa di provare ad arrivare a 90 e vedere l'effetto che fa e che succede. Poi arriverà anche l'Inter dei soldi cinesi se non li buttano via, però più l'impressione è che se dobbiamo cercare un avversario l'anno prossimo sia da cercare da quelle parti. Abbiamo il traffico, io ringrazio Giancarlo Dotto. Ciao, grazie Giancarlo. Ciao. Intanto il nome di Manzucchi ci sta raccogliendo tanti consensi, 349-238-6666, torniamo subito. Convocati. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Tutti convocati. Festa che prosegue sul terreno dello Stadium. La coppa del sesto scudetto consecutivo viene portata in pellegrinaggio sotto i vari settori dello stadio. C'è chi ci segnala che Allegri per la prima volta è andato a festeggiare sotto la curva, cosa che non aveva mai fatto gli altri anni, e scrive questo amico, credo sia indicativo del suo futuro. Io credo che Allegri resterà, i dubbi sono stati spazzati via nei mesi scorsi, sì, oggi ha preso e poi il fiore, vediamo dopo Cardiff, quando insomma. È arrivato ha preso le pietre, non dimentichiamolo mai, le uova sulla macchina. Sandro da Napoli. Voglio sentire uno juventino felice. Sandro? Non sono io. Ciao. Allora, che ci posso fare? Convoco uno juventino felice 800240024. Dica. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. No, io sono assolutamente d'accordo con Giovanni per quanto riguarda il discorso del Napoli, che non è concreto, ma cioè, Napoli ha fatto, cioè, potenzialmente farà 86 punti, cosa che non ha mai fatto nella sua storia. Certo, è normale che se poi gli altri fanno 90 punti è difficile vincere qualcosa. La base a questo punto è ovviamente non smantellare il giocattolo, come tutti sperano, ripartire da questo gruppo e magari qualche innesto mirato, però comunque secondo me la base ci sta. Il Napoli ha dimostrato nel girone di ritorno alla fine. Sì, la base è buona, poi è anche difficile capire, anche se in realtà esistono i margini, che cosa può essere migliorato questo Napoli. Appunto, ad esempio davanti io non so chi potrebbe essere tolto per uno che arriva. Questo è il domandone che faccio a Capuano e Pardo. Adesso ci pensiamo, abbiamo un'estate di tempo per pensare. Ma che estate è oggi? No, solo una cosa, non per fare la parola del diavolo, sono campionati questo in maniera particolare, nei quali la differenza tra le grandi e le piccole è aumentata, quindi il motivo per il quale Napoli probabilmente farà 86 punti e la Roma probabilmente ne farà 87 deriva anche dal fatto che si è allargata la distanza rispetto alle piccole, e quindi con questo tipo di situazione ogni singolo passaggio a vuoto pesa al doppio. Il Napoli in realtà ha pagato soltanto quel mese in cui, dopo l'infortunio di Milik, ha faticato a trovare delle soluzioni, poi le ha trovate in maniera brillantissima con Mertens prima punta. Ma certamente quel mese lì, quei 45 giorni lì, i 10 punti in 7 partite, te lo sintetizzo io, 10 punti in 7 partite, 10 punti in 7 partite. È la distanza. Sono stati alla fine decisivi. Dico anche che secondo me la Juve nelle ultime giornate di campionato qualche punto l'ha lasciato. È stata una frenata abbastanza controllata. Poi qualche tremore è anche venuto, credo, da Allegri nelle ultime ore. Aspetta, abbiamo meno di 4 minuti. Io volevo dedicare, tanto poi abbiamo tempo fino alle 19, andiamo avanti a parlare della Juventus. E non solo, volevo dedicare però un cameo all'altra faccia felice di oggi, quella del Milan. Saluto Mario Ielpo. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Mi dai un voto alla stagione del Milan? Secondo me 8, lo dico, se metti insieme Supercoppa e qualificazione 8. In Europa davanti a Inter e Fiorentina. Mario? No, io non sarei così positivo. Io gli darei un 6,5, come si chiama a scuola. D'accordo con te. Mia scuola, io ho fatto il liceo classico. 6,5 era un vuoto buono, non era un vuoto così, non era facile da prendere. Però insomma, non possiamo scordarci che, come diceva Pardo, quest'anno il campionato è stato molto facile. Cioè, oltre alla venire meno delle squadre piccole, secondo me il valore delle squadre medie è crollato. Cioè, oggi il Milan è stato costretto in una specie di Chapanò, gli è rimasta l'ultima carta e ha preso, ecco, e quindi ha Chapanò, se pensiamo che gli altri abbiano voluto non andarci, io non credo. No, non lo so, no, apposta non l'ha fatto nessuno. Ha ragione Jelko, la borghesia è in crisi. Il valore delle squadre medie, che a maggior ragione ha impedito a Napoli, con i punti che ha fatto, di arrivare primo, cioè, tu anche se non, cioè, perché, verissimo Mario, verissimo, perché a un punto qualsiasi non c'era un Milan che lo toglieva magari alla Juventus. Il parametro di riferimento del valore di un campionato è la borghesia. La borghesia è in crisi, quest'anno è stato molto in crisi, quindi alla fine, insomma, io direi che il Milan non mi ha convinto, come spirito di squadra. Il numero uno, Montella, bisogna riconoscergli un grandissimo lavoro in mille difficoltà di aver dato un grande spirito di squadra. Come gioco, sinceramente, non mi ha mai convinto tutto il campionato con due esterni che non vengono mai dentro, il centravanti con grandi limiti, chiunque ha giocato centravanti, però sempre lasciato solo in una valle di lacrime. Non mi ha convinto, fino in fondo. Bisogna dargli appunto un voto alto per lo spirito, non basso, per lo spirito di squadra che invece ha sempre avuto e che è quello che, a differenza degli altri, poi l'ha portato alla arrivare a questa qualificazione. E anche per la Supercoppa, che insomma, comunque alla fine è un trofeo. È l'unica squadra italiana che alza un trofeo, a parte la Juve. Guarda, io qualche mese fa, nella prima parte della stagione, avevo fatto un tweet forse infelice nella forma, dicendo che il Milan era una squadra al sesto posto, e un sacco di tifosi del Milan mi hanno detto: no, ma come ti permetti, eccetera eccetera. Ecco, il Milan è una squadra al sesto posto, secondo me ha fatto il campionato che era giusto, che era lecito aspettarsi. Aspettavo l'Inter quinta, la Atalanta settima, poi per il resto il Napoli secondo e la Roma terza, ma al di là di questo i valori sono quelli lì, e penso che però sia vero quello di Mario, e in qualche modo è riflesso dal tuo voto. Cioè, Montella ha dato a questa squadra sicuramente uno spirito, una capacità di lottare, una capacità di non disgregarsi nei momenti di difficoltà, che pure ci sono stati, che va sottolineata. E secondo me, insomma, alla fine Montella, il Milan esce con un 7 meno da questa stagione, visto che abbiamo i voti, Montella esce con un 7 pieno, perché secondo me è riuscito veramente a dare a questa squadra un valore e un senso di appartenenza che non era facile. L'esempio opposto è quello dell'Inter, che secondo me si è sciolta. Un umano, secondo me è un po' sopravvalutata, però secondo me ha comunque più talento del Milan e arriva nettamente si è dissipata. Allora, abbiamo il Jerry, io ringrazio Mario Jelpo, grazie Mario, grazie, un abbraccio a tutti, alla prossima. Pier invece resta lì, 800 24 00 24, 2 minuti, torniamo. Sono critiche che lasciano il tempo che trovano. Ricordiamoci che cos'era la Juventus nel 2010, che fatturato aveva rispetto a queste stesse squadre che oggi accusano la Juventus di avere un fatturato superiore. Criticare la Juventus di oggi perché ha assunto una dimensione troppo grande mi sembra un po' riduttivo e fine a se stesso. Bisogna in primis guardare noi stessi, guardare cosa possiamo fare per migliorare, e dopodiché guardare gli altri. Tutti convocati. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Tutti convocati. Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, Genova. Arriva il pallone sul primo palo, il gol del vantaggio del Genoa, direttamente in porta, è battuto Joe Hart. Dalla finestra. Pallone spizzato da Velar. Lazovic in mezzo, porta spalancata, colpo di tacco di Simeone ed è 2-0 per il Genoa. Sordo Genova. Mi piace, carissimo Pier, andare anche a sfrucugliare i sorrisi degli altri. Abbiamo sentito prima Montella. fammi salutare Francesco Baccini. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Allora, ciao. Finalmente un po' di profumo di sofferenza. Finalmente un po' di sofferenza, ne avevamo bisogno. Finalmente un po' di gioia, perché sofferenza. No, gioia dopo anche, la sofferenza, perché la Juventus sì, è lo scudetto più banale che si ricorda. Allora, no? vi leggo che cosa ha detto Juric dopo due settimane fa. Era scoppiato in lacrime in conferenza stampa. Oggi non ha detto: è stato un anno paradossale. Dopo un grande girone d'andata abbiamo fatto un ritorno da dimenticare. Oggi, vabbè, abbiamo fatto benissimo contro il Toro. Il futuro, mi piacerebbe costruire un grande futuro qui, ma se anche non fosse così sarei comunque felice per la salvezza raggiunta. C'è anche più Luigi Pardo con noi, non lo fa, so, fa tutto molto noi lo ridere. Diciamo da settimane, il Genoa non l'avrebbe meritata questa salvezza per il ritorno che ha fatto, poi dopo il campo dice questo e ci inchiniamo al verdetto del campo, no Francesco? Ma guarda, noi abbiamo fatto innanzitutto un girone d'andata direi buono, perché a un certo punto eravamo tra le prime 7-8 squadre, poi c'è stato un crollo verticale della squadra dopo la partenza di Pavoletti Rincon, che sicuramente nell'economia del Genoa, come dire, avevano un peso non solo in campo ma anche negli spogliatoi. Cioè, scusa, no? Francesco, sì. Le parole di Juric fanno molto ridere, perché è chiaro che non solo Pavoletti Rincon, preziose dopo il giorno d'andata, vista l'aria che tirava, dove erano le ultime, sì, della classe, ha smantellato la squadra. Invece è una cosa acquisita, fai un anno tranquillo, vendi i due pezzi forti, in più devo anche aggiungerci l'infortunio di Perin, che per il Genoa, certo, non solo per il Genoa, perché uno avere in porta Perin è una garanzia per tutto il reparto difensivo, okay? E poi l'infortunio di Veloso, che era un altro uomo, come dire, d'ordine della squadra. Vengono a mancare quattro punti, la spina dorsale di una squadra. È chiaro che a un certo punto è cominciato il delirio, con partite perse allucinanti, cioè quando perdi in casa 4-3 col Palermo, vinci 3-1 a 5 dalla fine. Quando ne prendi 5 dal Pescara. Ne dai, prendi 5 dal Pescara. Che è forse oppure l'immagine simbolo. Perdi a Palermo. Sì, ma tu pensa che quest'anno, ma anche solamente le ultime 4, non abbiamo fatto 6 punti con Inter e Torino e 0 punti con Palermo e Chievo, due squadre che non avevano più da chiedere nulla al campionato, perché il Palermo era già retrocesso, il Chievo veleggiava a metà classifica tranquillo, e siamo riusciti a prendere 0 punti. E poi abbiamo battuto Inter e Torino, tra l'altro oggi è una partita impeccabile, è la stessa squadra che domenica scorsa a Palermo ha perso, quindi non si riesce a capire, no? Un dramma incredibile. Sì, e tra l'altro, o forse prego, quando ti abitui a non vincere più, non vinci più. Il Genoa ha cominciato una serie di sconfitte una dietro l'altra, anche a volte anche con un po' di sfortuna, anche paradossali, però quando ti abitui a non vincere, non vinci più. E mi ricordava un po' questo trend del giorno di quest'anno, quello della Sampdoria di qualche anno fa, quando andò in B partendo dal terzo posto. Non so se vi ricordate, la Sampdoria era qua nelle prime posizioni e perse tipo 13 partite di fila, andò in Serie B. Perché poi quando giochi col fuoco rischi di scottarti, Pier, per prima o poi. E tra l'altro non era la prima volta il Genoa che faceva questo giochino con Preziosi e poi arrivava in fondo col fiato corto. Ma guarda, negli ultimi 10 anni è successo credo una volta, ma neanche poi così tanto, perché ci sono sempre stati il Genoa negli ultimi 10 anni, a parte 2 anni che addirittura siamo arrivati in Europa League, poi un anno non ci siamo andati a giocare, ma sul campo l'avevamo guadagnato, no? Abbiamo fatto sempre campionati tra il 10° e 11° posto, cioè campionati tranquilli, ecco, erano un po' lontani questi campionati del Genoa che si salvava alla fine. E quest'anno è successo, tra l'altro, in un'annata dove, arrivati a metà, nessuno pensava a un finale del genere, ma noi che se non soffriamo non ci divertiamo, no? Abbiamo reso il campionato un po' più divertente. Pier. Sì, no, ma sono d'accordissimo, io non condivido, lo sai, l'idea che Genoa dovesse retrocedere, nel senso che chiaramente se la memoria è quella delle ultime giornate, per quello che si è visto negli ultimi 2 mesi, sì, Genoa le ultime 20 giornate. Sì, sì, no, certo, però c'è stata anche la prima parte della stagione, io ho fatto Genoa, ho fatto delle cronache del Genoa varie volte, ho visto grandi partite, Genoa Milan 3-0, Genoa Juve non l'ho fatto io, ma me la ricordo benissimo, Genoa Napoli all'inizio. Il pareggio con Napoli in casa, che in quel momento Napoli era fortissimo, l'abbiamo bloccato, addirittura abbiamo rischiato di vincerlo. Sì, esatto, però c'è un Genoa A e un Genoa B, appunto, questo no, è il discorso. Sono due squadre completamente diverse. mai come, come stavolta la diagnosi è semplicissima ed è perfetta la di Francesco, perché poi alla fine questo è stata una scommessa, è stato un ragionamento fatto male da Preziosi e poi probabilmente nessuno si aspetterà anche questo ritorno del, del Crotone, perché quest'anno credo che sia l'unico anno, io non mi ricordo almeno a mia memoria e non ho vent'anni che le ultime tre erano così nette già a metà campionato. No, infatti non è mai successo. Perché il Crotone ha fatto le ultime sette partite con una media punti da scudetto. Ha fatto 17 punti nelle ultime otto. E questa leggenda era quella di oggi. E nessuno due mesi fa pensava a una roba del genere. E tant'è che il Crotone è ancora come dire, in lotta per rimanere in Serie A, perché domenica c'è l'ultima partita e se la vedrà a distanza con l'Empoli. Quindi c'è ancora la possibilità di rimanere in Serie A. Sì, tu credi in un grande futuro come Juric per il Genoa? Guarda, io ero uno di quelli che quando è andato via Gasperini, e devo dire molto dispiaciuto perché sono un gasperiniano, fossi il presidente gli faccio un contratto per 200 anni, Juric era, come dire, il sostituto naturale di Gasperini, anche perché innanzitutto era suo capitano in campo quando giocava e Gasperini era in panchina, e poi attuava un po' un gioco abbastanza simile a quello di Gasperini. E infatti finché il Genoa, specialmente quello dell'inizio campionato, aveva quel gioco nelle gambe e nella testa, ha fatto delle vittime illustri. Poi si è rotto il giocattolo a un certo punto. Però Juric, secondo me, hanno rotto, è uno non che si può, è rotto, ci sono responsabilità precise. Non ho capito. Hanno rotto, non si è rotto, cioè non è caduto per terra dal tavolo. No, chiaro, hanno rotto ecco. un giocattolo. E comunque, secondo me, Juric è un buon allenatore. E ha dei moduli di gioco a me piacciono, quando il Genoa gira in un certo modo mi diverte vedere quel calcio lì, quindi vediamo la società l'anno prossimo come si comporterà, anche perché devi chiaramente questa squadra rinforzarla con una campagna, purtroppo con gli altri anni la campagna di gennaio il Genoa si è sempre rinforzato, quest'anno invece il contrario. Sì, è stata fatta per smontare gente come il giocato. È stata una valutazione sbagliatissima, sì. Legata proprio a quello che diceva Bassini prima, cioè che comunque le ultime tre andavano talmente piano che, sì, che non sembrava neanche un pericolo. E poi aggiungo anche una cosa, che quando poi uno la vede sempre dal punto di vista della società, certamente Preziosi ha sbagliato, non c'è dubbio, però uno come Pavoletti, che ha l'offerta del Napoli, è pure difficile da tenere a Genova, uno come Rincon che ha offerto della Juve è pure difficile da tenere a Genova, quindi certo. C'è anche questa componente qui, poi è stato fatto un errore clamoroso, penso che Preziosi lo sappia, si è capito mille volte, però insomma alla fine secondo me per la qualità complessiva durante la stagione Genova merita di rimanere in Serie A, insomma ripeto, gli ultimi mesi sono stati catastrofici, siamo tutti innamorati di questo Crotone, di questa favola del Crotone, di questo spirito, di questa squadra che non ha cambiato allenatore ed è bellissimo. Però insomma io credo che come valorizzare tra l'altro un ex genuano. Sì, Nicola. Esatto. Ma ha ragione il presidente Verena. Io mi auguro che il Crotone si salvi, anche perché veramente ha fatto un finale di campionato incredibile. Ti salutano gli amici da Empoli, eh? Empoli che io ho detto mille volte meriterebbe la retrocessione. Meriterebbe la retrocessione d'ufficio l'Empoli per il giorno di ritorno che ha fatto. Anche perché l'Empoli in realtà sulla carta domenica è molto più favorita del Crotone, che gioca con la Lazio. Ma. No, io dico questo, ma lo dico da mesi, se una squadra non vince più è perché ha poco dentro, altrimenti si sarebbe salvata andando a fare punti a Cagliari settimana scorsa contro una squadra in vacanza e anche oggi l'Empoli oggi in casa con l'Atalanta. Io ho visto delle azioni, si è mangiato dei gol clamorosi, ha rischiato di prendere anche altri piatti. Sì, assolutamente. L'Empoli in rottura prolungata, a parte le vittorie a Firenze e a San Siro, che sono stati due fiori spuntati nel deserto. Vi devo fermare perché c'è traffico. Grazie a Francesco Baccini. Francesco. Grazie a voi, Forza Genoa. Ti ritroviamo l'anno prossimo in Serie A con il suo Genoa. 800 24 00 24. Torniamo subito. Siete tutti convocati. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Un aggettivo rapido per ognuno di questi sei scudetti consecutivi, dal primo a questo. Non ho la lucidità per per poter pensare a un aggettivo diverso per questi scudetti. Sicuramente ti dico che, a parte il primo, che siamo stati la rivelazione, la sorpresa, tutti gli altri siamo partiti giustamente come favoriti, perché sulla carta lo eravamo. Riuscire a vincere per così tanti anni di fila è un sacrificio enorme, a livello nervoso tutti i giorni per migliorarsi, tutte le domeniche per vincere, perché ogni pareggio è una mezza sconfitta ed è veramente un assillo. E siamo stati, secondo me, grandiosi. Questo Gigi Buffon, e a proposito, primo scudetto vinto con in panchina Antonio Conte, che vedo sui due schermi dall'altra parte, proprio in questo momento sta festeggiando uguale a Stamford Bridge. E dall'altra parte Max Allegri. Il titolo di Premier vinto con il Chelsea. Saluto intanto Gigi De Cagno. Ciao mister, buon pomeriggio. Ciao a tutti, buonasera. Vi voglio far sentire però quest'altra cosa di Buffon, che è la fotografia esatta di perché la Juve ha vinto 6 scudetti di fila. La testa da oggi può piano piano avvicinarsi a Madrid, anche se devo dire per mia colpa fino a 3 giorni fa ho fatto una settimana a pensare solo a quello e sono andato in villeggiatura a Roma e a fare una figura del cavolo. Le figure del cavolo anche a 39 anni non mi piace farle, era secondo me buona cosa cercare di mettere la testa per questa partita e poi da domani si penserà a come affrontare il Madrid. Grande. Avete Buffon. Capito, questo mamma Buffon, che effetto fa Gigi De Cagno? Minuto numero uno, con in mano la coppa del 6° scudetto consecutivo. La grandiosità delle persone, degli uomini, degli atleti, lo si vede da queste situazioni, in questi momenti, con un'analisi così lucida, critica, mettersi sempre la faccia, così, con questi, quando si è grandi è logico vincere, è meritevole. Quelli così sono anche facili da allenare? O c'è chi dice che è difficile perché hanno una personalità straripante dentro uno spogliatoio? No, se uno fa l'allenatore ed è allenatore, non può temere, anzi la grandezza dell'allenatore sta proprio nella capacità di riuscire a misurarsi con chi gli può essere utile per raggiungere tutti i risultati. E io continuo a pensare che la chiave di tutto sia la stanza dei bottoni, quelli che sono dietro la scrivania. Credo che la chiave di tutto, personalità, una personalità. Se hanno la chiave di tutto, è vero che è quello. Se come in qualsiasi grande impresa, se chi sta nella stanza dei bottoni ha la competenza, si affida alle persone capaci, competenti, grandi e ottiene grandi risultati. Giusto anche questo concetto. Secondo voi questa è la Juve più forte di tutti i tempi, potenzialmente, se dovesse poi andare a finire in una certa maniera a Cardiff, la Juve di Trapattoni degli anni 80, la Juve di Lippi degli anni 90, questa di Allegri e Conte? Ma il paragone è difficile, forse il paragone più facile è quello con questi 6 scudetti. Io credo che la Juve di oggi abbia, rispetto a quello del passato, una maggiore consapevolezza, abbiamo sentito Buffon, e secondo me ha proprio una personalità ancora superiore rispetto per esempio alla Juve di due anni fa. La Juve che arrivava a Barcellona, l'abbiamo detto mille volte, e se vai a vedere i protagonisti, forse in mezzo al campo era anche più forte, perché aveva Pirlo, aveva Vidal, aveva Montella, però aveva ancora questa consapevolezza e questa personalità, che è dovuta ai successi degli ultimi anni, ma secondo me anche al fatto che sono entrati dei giocatori di enorme profilo, di enorme spessore. Ecco, io quando penso a Mandžukić, come si è detto prima, o penso a Dani Alves, o penso allo stesso Higuaín, ma Higuaín secondo me è anche un po' meno rispetto a questi due, è fortissimo, però secondo me quella caratteristica lì è soprattutto in gente come Mandžukić e Dani Alves. Sono giocatori che riescono a dare personalità, qualcosa di immateriale, qualcosa di forse anche di indefinibile, ma che è decisivo. Sì, vedi anche da dove provengono, Bayern Monaco e Barcellona, due che hanno fatto il triplete, che dira che arriva da Real Madrid, quindi è tutta gente che conosce esattamente la strada che porta lì. No, questo è uno degli altri segreti di Pulcinella. Sì, non a caso sono due che hanno fatto il triplete. Gigi De Cagno, meglio questa Juve o le altre che ho citato? Sinceramente non saprei dire, non mi sono mai fatto una domanda e non riesco a pensarci. Perché Gigi, i paragoni epocali sono semplicemente un divertente gioco. Sì, volendo guardare, era forse più forte la Juventus di Trapattoni, Platini e Boniek, con 9 campioni, 8 campioni del mondo più Platini e Boniek. Sotto questo profilo, io, se mi permettete, attraverso le parole di Buffon, voglio ricordare e fare un plauso particolare ad Antonio Conte, perché credo che la svolta della Juve sia arrivata con lui in panchina, perché quella era una Juve che veniva da parecchie annate non molto felici, e quindi in quel confronto con il Milan, in cui loro comunque non partivano favoriti, e lui, anche attraverso tanti pareggi, ma attraverso anche la dialettica forte con quelli del Milan, è riuscito a dare alla Juve il suo ruolo di antico, no? Di guida di questo campionato. E la capacità, il modo di imporsi anche a questi grandi uomini, e poi lo abbiamo visto per quello che sta continuando a fare, credo che abbiano... Secondo te sarebbe anche l'uomo giusto per l'Inter? Non siete più. È caduto. Aspettate, perché c'è Allegri e i microfoni di Premium. Allegri, che finalmente è arrivato i microfoni dopo la lunga festa dello stadio. Sentiamo Allegri. La Juve, questa Juve, la tua Juve nella leggenda. Ma innanzitutto c'è da fare i complimenti innanzitutto ai primi 6 giocatori che hanno vinto 6 scudetti, che credo che siano loro quelli che entrano di diritto nella leggenda. Io ho partecipato a questa festa e direi sono molto contento per quello che i ragazzi stanno facendo. Diciamo che quest'anno, rispetto al primo anno, è un percorso al contrario. Siamo partiti dalla vittoria del campionato, dalla vittoria di Coppa Italia e poi abbiamo perso la Champions. Quest'anno magari può essere il contrario, siamo partiti da quello meno importante a quello più importante, e poi dopo c'è l'ultimo, che è un sogno, che le finali Champions si giocano tutti gli anni, e la Juventus ne ha giocate 2 negli ultimi 3 anni, quindi per questo c'è da fare i complimenti a tutti, alla società che ha saputo anche cambiare dopo il primo campionato, ma soprattutto ai ragazzi che stanno facendo, hanno fatto delle cose straordinarie come disponibilità e soprattutto come voglia di vincere. Cambiare è una delle altre chiavi del dominio della Juventus. Abbiamo recuperato Gigi De Canio, cui chiedo di rispondere alla domanda che gli ho fatto prima. Parlava di Conte, se Conte è l'uomo giusto per l'Inter, se si aspetta di rivederlo in Italia, proprio magari per quel senso della sfida lì, cioè quello di prendere una squadra e ricostruirla. Conte, anche sotto questo profilo, è un uomo particolare, diverso, è un guerriero, quindi è un uomo che ama le sfide, ma certamente ha la competenza, la personalità per essere utile a qualsiasi grande club, e in questo caso anche a un club come l'Inter, che credo forse abbia bisogno proprio di figure come lui. Ma ti aspetti di rivederlo qui? Questo non lo so. Come ragiona un tecnico in questo momento? Guardate, la sfida col Chelsea è affascinante, perché il Chelsea non è un club di secondo piano, quindi ha cominciato un lavoro e c'è la possibilità immediata di competere anche per la Champions, e per lui credo che ha già vinto degli scudetti in Italia, li aveva vinto in Premier, ora credo che il confrontarsi per qualche obiettivo in Champions importante credo che sia molto stimolante per lui. Grazie, sì. Mister. Grazie a voi. Posso dire una cosa finale? Sì, vai, Pier. No, volevo chiederti, visto che ci incontriamo. Aspetta che lo teniamo. Vai. Visto, c'è ancora? Sì, ci sono. Eccolo. Ecco, visto che ci incontriamo spesso, beati di noi a Napoli, volevo sapere che cosa pensi dell'entusiasmo che c'è adesso. Nel senso, io sono un po' in controtendenza, nel senso che è chiaro che il Napoli merita una marea di applausi per quello che ha fatto, perché gioca un grande calcio, ce l'ha fatto vedere anche ieri sera, però ho paura che questa roba qui poi possa essere un diversivo, possa nascondere dal fatto che questa squadra deve ancora crescere. Cioè, che questo Napoli così, e lo dimostra comunque la storia di questa stagione, è bellissimo, è fortissimo, ma per vincere non basta. Cosa, posso aggiungere, anche se arriveremo un po' in ritardo sulla, sulla pausa, che cosa, come è migliorabile questo Napoli? Ma è migliorabile perché la Juve ha vinto gli scudetti, è andata alla ricerca di quei giocatori di spessore che potevano dare qualcosa in più. Per migliorare il Napoli certo che c'è bisogno di calciatori di spessore. Se continua a spendere soldi per giocatori che poi stanno in panchina o non giocano mai, insomma, è chiaro che diventa difficile e migliorabile. È bello, è bellissimo da vedere, bello il lavoro del fantastico, meraviglioso il lavoro del, dell'allenatore, ma credo che la società possa e debba fare qualcosa in più. Quindi ha ragione Pardo. Io ci troviamo spesso e mi accorgo insomma che pensiamo spesso allo stesso modo. Ma l'entusiasmo è una cosa bella, sì. Questo bella. Roma e Napoli, Roma e Napoli sono molto simili, però poi l'entusiasmo tante volte, insomma io ho vissuto anche anni a Roma e continuo a venirci spesso, sono a Roma stasera per Lazio Inter, vado spesso a Napoli, questo tipo di entusiasmo qui è bellissimo, però ripeto, non deve diventare qualcosa che poi nasconde dal vero obiettivo e da qualche limite che è rimasto, perché non, secondo me non, è rimasto qualche limite. È proprio così, è giustissimo, perché è giusto avere entusiasmo, perché la squadra diverte ed è bellissima da vedere, c'è qualcosa di cui essere orgoglioso, insomma, perché l'allenatore e la squadra hanno fatto un buon lavoro, però se poi si vuole essere competitivi con queste grandi società, certo che bisogna fare qualcosa in più, ma di molto pratico, insomma. È arrivato il momento di salutarci, grazie a Gigi De Canio. Grazie a voi, buona serata. Grazie anche a te Pier. Stasera amichevole di lusso, Lazio Inter, ma adesso ne parliamo, parliamo anche del suicidio di Valentino Rossi, suicidio sportivo ovviamente, parliamo del Giro d'Italia con te Pier, domani invece dopo, dopo il GR delle 14. Ciao. Un minuto, torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. In questo momento questa squadra, da un punto di vista mentale, lo sforzo non lo accetta e ha bisogno di essere incitata, ha bisogno di essere spinta con le parole, a voce, sempre, in ogni situazione, a richiamare l'attenzione in ogni situazione, ed è una cosa insomma che fai fatica a ritrovare l'aspetto mentale. Questo se Stefano Vecchi ieri alla vigilia di Lazio-Inter, che io ho definito secondo me in maniera magnanima un'amichevole di lusso, in realtà è un'amichevole e basta. Saluto Mirko Graziano che sta raggiungendo lo stadio olimpico di Roma. Ciao Mirko. Ciao a tutti, sono accanto allo stadio dei Marmi, dico insomma, solo questo. Ah, dove tra l'altro si è appena chiusa anche la giornata delle finali del torneo di Roma e si è conclusa con la vittoria di Zverev per gli uomini, battuto Djokovic 6-4, 6-3, e della Svitolina che ha battuto la Halep in 3-7. E con questo insomma vi abbiamo detto anche come sono finiti gli internazionali d'Italia, vi diciamo anche che l'Arsenal è fuori dalla Champions per la prima volta dopo 20 anni. In Champions vanno Manchester City e Liverpool e si tengono Wenger. Si tengono Wenger. Sicuramente bravi. Inter che gioca per evitare di scrivere la storia al contrario, no Mirko? Mai è stata 9 partite senza vincere in campionato nella sua storia, io non so nemmeno come possa pensare oggi di interrompere la striscia di 8 visto il punto di partenza e quanto ha detto Vecchi, sì, che è tristissimo, ma tanto siamo tutti già concentrati a capire cosa sarà il futuro, no Mirko? Sì, è vero, il rischio è quello di scrivere la pagina peggiore della storia dell'Inter, ma io sono d'accordo con quello che diceva Carlo, mi pare, l'ho sentito, le frasi di Vecchi sono abbastanza sconsolanti, è sconsolante sentire una cosa del genere, perché non trovare le motivazioni con quella maglia, parliamo di un gioco, cioè io queste cose fai prima a dire questi qui sono da cacciare tutti, Certo, perché una frase del genere è pesantissima, è un attacco alla professionalità di tutti i giocatori. È inutile stare a nasconderci dietro, dietro un dito. È una frase pesantissima. Purtroppo fotografa in un certo senso tutta quest'ultima parte della stagione dell'Inter. Ma del resto all'Inter si sono rotti gli argini, perché anche le parole di Ausilio, per carità, carpite in un contesto in cui non pensava forse ingenuamente di poter finire sui giornali, di fatto solo da un certo punto di vista, Mirko, la fotografia esatta di cosa è stata la stagione dell'Inter, dall'altro anche la certificazione che poi diventa difficile andare avanti così. No, diventa difficile riproporsi così. Cioè, io dico che dopo una stagione del genere, penso che l'unica strada per l'Inter sia quella di un netto ricambio della rosa. È difficile riproporre gran parte di questi giocatori l'anno prossimo, anche per una questione di impatto col pubblico, capito? Di impatto ambientale. Questi ultimi due mesi l'Inter ha toccato il fondo sotto molti punti di vista. Non mi ricordo chi l'ha scritto, i giocatori da Inter, credo Maurizio Grosetti, i giocatori da Inter stanno su un taxi e ci stanno anche larghi. Dai, chi sono? Icardi lo mettiamo, Andanovic lo mettiamo? Ma ti dico Gagliardini. Allora, dal punto di vista tecnico... No, ma lascia perdere quello. Esatto. Lascia perdere quello. Quello che è venuto meno negli ultimi mesi è lo spessore, cioè per far parte di un grande club devi avere... Tutto un altro spessore nei momenti di difficoltà che viene fuori il giocatore che può far parte di un grande club, capito? Invece l'Inter si è letteralmente sfaldata negli ultimi mesi e non ha giustificazioni, obiettivamente senza giustificazioni. No, ma anche perché non esiste il club, e qui lo dico, alzo un grido di allarme alla Cina, perché il calcio italiano, io sono preoccupatissimo per il futuro, perché il calcio italiano ha un dannato bisogno di una Milano calcisticamente forte, perché altrimenti andiamo verso 10 scudetti della Juventus consecutivi. Sì, anche di più. Giusto, vi avevo detto che vi avrei dato i record di scudetti consecutivi. C'è il Lilcon, squadra di Gibilterra, che di scudetti ne ha vinti 14, e non è l'unica. Adesso ve lo leggo. Allora, Lincoln Gibilterra dal 94 al 2007, lo sconto Rigo in Lettonia, questi hanno vinto 14 scudetti di fila. 13 scudetti il Rosenborg in Norvegia, ecco, dal 92 al 2004. 11 scudetti di fila la Dinamo Zagabria in Croazia, il Bate Borisov in Bielorussia. 10 scudetti lo Sheriff Tiraspol in Moldavia, la Dinamo Berlino in Germania Est, parliamo anni 70 e 80, la Dinamo Tbilisi in Georgia, 9 scudetti la Dinamo Kiev in Ucraina, e poi 7 scudetti l'Olympiakos in Grecia, il Lione in Francia, il Basilea in Svizzera, e poi con 6 insieme ad altri arriva la Juventus. Saluto Mirko Graziano riportandogli Ciao, questa Mirko. Voce che oggi ancora scrive la stampa inglese, il Daily Express, per cui Suning sarebbe pronto a offrire 23 milioni di euro lordi a Conte per convincerlo. Tu quanto credi all'idea che Antonio Conte il primo luglio sia da piano Gentile? Poco, però bisogna ancora crederci per un po', nel senso che la voce è reale, la tentazione è reale, perché a Conte è stato offerto un progetto eccezionale per un allenatore, è un progetto proprio da manager inglese vecchio stampo, tanti soldi, massima libertà a livello di mercato, totale controllo, diciamo, della zona pinetina, e poi comunque parliamo pur sempre dell'Inter, quindi un grande club, un club di grandissimo prestigio, quindi la tentazione è forte, sì, per Conte, che però giustamente non può non dare la precedenza al Chelsea, a una squadra con la quale è sotto contratto ancora per altri due anni, alla quale ha fatto delle richieste che, se verranno accettate, insomma, perché non dovrebbe poi andare via di fronte a un sito tale anche da parte di Abramovic. Quindi è difficile che Abramovic faccia scappare un allenatore così, è impensabile forse in questo momento, e non è neanche conveniente, perché poi altri grandi allenatori in giro non ce ne sono. Cioè Abramovic di Conte dovrebbe andare a rimediare su piazza un... Sì, farebbe fatica a trovare il successore. Allegri. Un grandissimo allenatore. Allegri. Però la tentazione, Allegri, nel caso vincesse, facesse il tripletto, magari potrebbe anche pensare di considerare chiusa la sua avventura alla Juventus. Però c'è ancora un po' di tempo. Ripeto, però la tentazione per Conte c'è, è notizia, questa è notizia. Abbiamo ancora qualche giorno per capirlo. Grazie Mirko. Ciao Mirko. Grazie a voi, ciao. Grazie Mirko Graziano, traffico, e poi il Valentino Rossi. Tutti convocati. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta tutti convocati. Attenzione, perché siamo veramente alle ultime curve, è di nuovo molto vicino Rossi, sta chiedendo tutto per tutto, lo fa lui, lo fa anche Maverick Vignale davanti a lui, è preoccupante la staccata dell'ultima curva, o in cui è andato in terra, esagera. È andato in terra Rossi, no, mannaggia, la corsa perde il suo splendido protagonista in Valentino Rossi, mentre Maverick Vignale c'è e va a vincere. Sono arrivato che pensavo che ce l'avevo dietro, perché realmente non ho visto che aveva andato molto lungo, però comunque ho spinto al massimo, ho chiuso tutte le parti dove Valentino poteva avanzarmi e comunque contentissimo, fare il giro veloce alla fine non è facile, però Valentino mi stava esprimendo al massimo, quindi ho detto o tutto o niente, alla fine è stato bello. È stato bello per Vignales, un po' meno per Valentino Rossi, o tutto o niente, anche il pensiero che ha fatto Valentino Rossi lo avete un sentito. Un sacco di parole, meglio che non le dica. Lo avete visto, si è steso a due curve dalla fine, a quattro curve era primo, poi ha sbagliato, ha subito il sorpasso di Vignales e probabilmente ha pensato di poter fare la cosa che invece lo porta in questo momento da primo a terzo nella classifica mondiale, 85 punti Vignales, 68 Pedrosa, 62 Rossi. 58 Marquez, che a metà gara ha salutato tutti finendo per terra. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Roby. Ciao Giovanni, ciao Carlo. Allora, qui dibattito aperto, no, io dico la mia. La mia è che se tu ti chiami Valentino Rossi e vuoi vincere il mondiale, ti prendi anche il rischio di finire per terra, perché questa è la domenica che devi vincere. No, io penso invece che abbia disegnato la domenica perfetta, poi ha commesso un errore sulla curva su cui si è fatto infilare da Vignales quando aveva la gara in mano. E lì è tornato il Valentino Rossi di quando aveva non 38 ma 18 anni e ha commesso un errore madornale nell'andare a cercare la vittoria. Adesso con Marquez che ha fatto zero, l'unica cosa che non doveva fare Rossi è fare zero in questa corsa. Sì, quello hai ragione Carlo, però io dico anche che abbiamo visto il Valentino che aveva 18 anni, non solo nell'errore ma nella voglia di attaccare. Guarda che sorpasso che ha fatto a Vignales in quella S. Perfetto. È stato qualcosa di fenomenale. Perfetto. Poi ha sbagliato e a quel punto arriva secondo, no? Allora, vuol dire che ha dentro ancora quel jolly da poter giocare e quella roba lì che ti serve per diventare campione del mondo. La cosa che mi ha fatto specie è che quando ha sbagliato la staccata, quando era davanti, è arrivato lungo e l'ha infilato Vignales, gli si è chiusa la vena. Appunto, è quello che ti sto dicendo, Roberto. È quello che ti sto dicendo. Lì è andato dentro con una tale velocità in quella S, non poteva starci dentro, proprio spanciato, la moto non ha retto ed è andato in terra. È lì che gli si è spento il cervello. Sì, lì hai ragione Carlo, però io quello, dico che, quello. Io dico mica l'errore, ci sta l'errore in cui ti fai infilare da Vignales e vabbè, avevi la gara in mano, ti incazzi, però secondo arrivi battaglia. Secondo, secondo certo battaglia, con quella testa lì, però vedere un Valentino così capace di lottare, che ha ancora quel jolly nella manica da poter giocare, che non accetta di stare dietro, è qualcosa di meraviglioso, perché allora sì, ti dico, non ha 38 anni in quello, capisci? Poi è chiaro che a fine del campionato, vedendo un Marquez fuori, doveva capitalizzare, però era troppo importante dimostrare a livello psicologico, dare quello schiaffo a Vignales, e che voleva dire guarda che ma gliel'aveva dato, ma ormai era andata, era già andata, gliel'ha dato, stava così quello. Sì, però se uno è capace a 38 anni di andare oltre i limiti è perché è capace di provarci sempre, è speciale, insomma, in quello tu sappiamo, sei speciale, poi è chiaro che col senno di poi era meglio secondo che niente, e era meglio anche terzo che niente. È importante, però, era non fare zero, però, cioè, però, ragazzi, però nel giorno in cui Marquez va per terra io comunque penso che il mondiale sia tutt'altro che chiuso, e anzi oggi c'è la dimostrazione, anche se i punti sono tanti adesso. È vero, però non è ancora chiuso, cioè un Valentino così, no, con le gomme a posto, le Yamaha, no, guarda Carlo che può ancora chiuso no, però se prima doveva vincere almeno un paio di gare, adesso deve vincerne tre, secondo sì, me, e diventa molto più difficile. Beh, questo gioco psicologico anche Vignales dovrà raccontare al mondo di poter essere il leader di un mondiale, è tecnicamente bravissimo, ma siamo alla quinta gara di una maratona di 18 e poi entrerà anche il livello mentale. fino a ieri il fatto che potesse vincere una gara non ci credevo così tanto, e doveva vincerne due, abbiamo detto, per fare sul mondiale. Adesso ho visto un Valentino che delle gare, qualche gara, la può vincere. È vero che indietro ha buttato il vento 20 punti con un market a zero, ha sbagliato tantissimo, però questo è il Valentino che ci può regalare delle soddisfazioni da qui alla fine del campionato. Questa è l'unica cosa positiva che ci può far ben sperare, perché è lì e ce la può ancora fare a battagliare. Avete visto quanto era Vinales comunque nervoso quando ce l'aveva dietro? Come era al limite, certo, nella guida, certo, non era più pulito, certo, lo soffre, certo, ancora. Certo, sì, sì. Ma è chiaro, cioè, no, ma per questo ti dico, aveva, certo, disegnato, certo, la gara perfetta Valentino. Sì, sì, sì. E comunque, permettetemi, ma Zarco non si può più dire che è qualcosa di improvviso. È lì per sbaglio. Ragazzi, quanti giri ha fatto davanti? Bravo. Ok, nella sua Francia, bravo, ok, che però iniziamo a tenerne conto di questo nome, perché quello lì, ragazzi, è un mattino. Vuole arrivare anche lui e ci regalerà. Avevano detto che era una pista Yamaha, abbiamo avuto la dimostrazione. Ragazzi, sì, è stato un gioco solo per loro. Per tutto il fine settimana, tra l'altro. Sì, incredibile. Allora, carissimo Roberto, domani poi ci sarà tempo per fare un'analisi più ampia anche su Marquez e il suo momento. Adesso invece noi la chiusura la riserviamo al Giro d'Italia. 200 metri al traguardo, attenzione che prova a uscire la maglia rosa che è sulla ruota di Thibaut Pinot. Adam Yates in prima posizione. È lui nella prima posizione, però con Bob Jungels, poi Yates, anche Pinot ed è Jungels. La vittoria di con Bob Jungels. Jungels primo, Quintana secondo, Pinot terzo, che si sono presi gli abbuoni, hanno limato un po' il distacco da Dumoulin, che è sempre maglia rosa. Domani riposo e poi si entra nella settimana decisiva. Pier Augusto Stagi, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Che palle sti nomi stranieri. Vabbè, ormai ci siamo abituati, che no? Che palle. Cos'è che dice? No, niente, è annoiato. Dico, dal che fatto che non vincano gli stranieri. Italiani. Sì, sono già 15, caro mio. Carlo ha ragione, anche se però bisogna dire che non ci si sta annoiando, per noi italiani no, è un bel giro, è un bel giro, è un momento difficile innegabilmente, e Carlo ha le sue ragioni, però sotto l'aspetto sportivo anche oggi è stata una tappa che per molti poteva sembrare una tappa semplicemente di trasferire, e invece se ne sono dati di santa ragione, hanno fatto una media folle, credete, di 200 km a quasi 47 di media, e c'era tantissima salita. Si sono veramente dati battaglia, non si sono risparmiati, e i big hanno provato, soprattutto con Vincenzo, che ha provato ancora una volta un po' a tastare il polso a tutti e soprattutto ha cercato di sorprendere Dumoulin e a mettere pressione a Quintana, Dumoulin in discesa. Sì, Dumoulin che sembra non soffrirla, no, Pier Augusto, la pressione, abbiamo qualche problema di collegamento, non sentiamo benissimo il nostro Pier Augusto Stagi. Però adesso si entra nella settimana decisiva, credo martedì, giusto, Pier Augusto, c'è il Mortirolo. Il Mortirolo non solo, c'è il Mortirolo e la doppia scalata dello Stelvio, quindi una tappa terribile, e il tappone a tutti gli effetti, e lì è il giorno della verità, non perché dopo non ci sarà più nulla, tutta la settimana, per tutti i giorni ci saranno montagne da scalare, ma il tappone ci dirà se Tom Dumoulin può essere attaccabile o no. Se può anche essere isolabile, che forse è una delle chiavi di questa vicenda. Grazie Pier Augusto Stagi, che continuiamo a sentire poi anche nei nostri appuntamenti informativi. Ciao Pier. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Pietro Lacorte e Roberta Fresani, che si sono alternati in regia, il nostro Andro Mercu con le sue voci. Non diciamolo neanche per iscritto. Triplete. Triplete della Juve. Cerpame, Celtroneria, Portaiella, Gufi, Cazzari e Cefari. Dai! Ci sentiamo domenica alle 17. Ciao a tutti. Suburra. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!